Benvenuti a tutti, nuova puntata di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2017-2018 prodotta da Radio Big World, ultima puntata dell'anno tra l'altro. Stiamo registrando di martedì pomeriggio in seguito all'annuale Notte di Natale, un programma ricchissimo quello di quest'anno che tecnicamente non ha deluso le aspettative. Anche se, permettetemelo, il main event tra Golden State e Cleveland, il rematch della finale degli ultimi tre anni, è apparso lievemente orfano di appeal, se non altro per l'assenza in campo di Stephen Curry tra i padroni di casa. Padroni di casa che sembrano aver ripreso da dove erano rimasti qualche mese fa proprio alla Oracle Arena contro LeBron e compagni, uscendo vincitori per 99-92. Statisticamente la storia della partita la scrive il trio degli Warriors orfani proprio del loro playmakerino. 25 punti con 5 stoppate per Kevin Durant, l'ultima apparentemente decisiva su LeBron James nella definitiva azione, o quantomeno nella sostanziale ultima azione, che poteva comunque lasciare in bilico la partita fino all'ultimo tiro o comunque riaprirla. La penetrazione del re è stata proprio bloccata da colui che è il principale terminale offensivo momentaneo per la squadra della Baia. Questa stagione, tra l'altro, difensivamente scatenato proprio in materia di stoppate. Risposta decisiva la sua a quella che era stata la tripla che aveva di fatto chiuso probabilmente la gara, quella scagliata dalle sapiente mani di Klay Thompson. 24 punti, con 4 su 7 da dietro l'arco per lui, coadiuvato da una prova mastodontica e grintosa in entrambi i lati del campo da parte di Draymond Green. Tripla doppia natalizia per lui, per colui che tra l'altro Flavio Tranquillo chiama l'orso ballerino. 12 punti, 12 rimbalzi, 11 assist con 2 recuperi ed una stoppata proprio su un James in una prova strepitosa grazie alla consueta grinta dell'all around da Michigan State. Tra l'altro molte polemiche a fine partita proprio per questa ultima stoppata di Kevin Durant su LeBron James e il precedente presunto fallo sempre di Durant su James non fischiato dalla terna arbitrale. L'NBA ha dichiarato, a distanza di poche ore dalla conclusione della partita, che effettivamente dei falli da sanzionare in quelle ultime azioni che hanno di fatto deciso la gara c'erano. Per quanto mi riguarda, credo che effettivamente nella penetrazione di James stoppata da Durant ci possa anche stare il non fischio, mentre nell'azione immediatamente precedente, cioè Durant che spinge da dietro un LeBron che prova a penetrare, lì effettivamente sembrerebbe che il fallo potesse essere la soluzione migliore da adottare da parte della terna. Comunque, uno dei rari casi in cui anche in America le polemiche sulle scelte arbitrali si fanno copiose, soprattutto quando capitano appunto nelle fasi conclusive di una gara tanto seguita e tanto importante come quella che riguarda la rivalità più grande attiva nella Lega in questo momento. Comunque, in ogni modo, Golden State si porta a casa la prima delle due sfide previste in stagione regolare contro i Cleveland Cavaliers di LeBron. Staremo a vedere cosa succederà alla prossima. Dalla parte proprio di Cleveland, le responsabilità offensive sono state caricate principalmente sulle spalle di un clamoroso Kevin Love da 6 triple, 31 punti e la bellezza di 18 rimbalzi, anche perché appunto LeBron James non gioca esattamente la sua miglior partita stagionale in una prima parte di campionato che tra l'altro lo ha visto essere letteralmente devastante. Chiude con 20 punti, 6 assist, 6 rimbalzi, ma anche 7 palle perse, seppur appunto nel finale si fosse acceso come da copione per riequilibrare il risultato della gara ad una manciata di azioni dalla fine, non riuscendo poi in definitiva proprio per queste due azioni tanto discusse. Lo aiuta comunque un Dwayne Wade sapiente ed esperiente con 13 punti dalla panchina, ma Cleveland però tira con il 31% dal campo contro il 46% avversario, seppur con 10 su 37 da dietro l'arco, una pessima serata al tiro da 3 per gli Warriors, che comunque malgrado tutto non rovina la 27esima vittoria stagionale che a fronte di 7 sconfitte e con una Houston in leggera flessione ne fanno ad oggi la prima squadra della Lega. Ad est, a proposito, il momentaneo primo posto in classifica è dei Toronto Raptors, perché i Celtics cedono per 111-103 contro i rivali dei Washington Wizards in casa al TD Garden. Nelle ultime tre gare Cleveland ha perso due gare, sconfitti infatti anche contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, oltre che nella notte di Natale di cui abbiamo già parlato, mentre i Celtics hanno fatto registrare la terza sconfitta in 4 partite proprio nella Christmas Night. Per quanto riguarda invece i Raptors, una sola sconfitta nelle ultime 13 gare stagionali, fermandoci ovviamente nell'oggi che è il post Christmas Night. Tornando comunque alla sfida di Boston, insufficienti 20 punti di un Tatum da 7 su 9 dal campo e di 20 di un Kyrie Irving che però tira male con 8 su 18. Oltre ad un'ottima prova di Rozier con 16 punti provenendo dalla panchina. Dall'altra parte c'è una prova corale di Washington che dimostra ancora una volta la temibilità del suo organico, seppur continui a mancare una presenza decisiva al centro per poter puntare a qualcosa di più di una semifinale di conference. Ovviamente questo è il mio parere personale. Malgrado questo, Gortat va comunque in doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi. Inoltre c'è un Kelly Oubre Jr. da 16 punti partendo dalla panchina e nonostante una pessima serata al tiro da 3 per Wall e Bill, che non ne mettono veramente neanche una, chiudono entrambi rispettivamente con 21 e 25 punti. Per John Wall da segnalare anche 14 assist. La sfida che ha aperto la nottata invece si è rivelata piuttosto sentita e probabilmente a mio avviso una delle più divertenti di tutto il lotto. I Philadelphia 76ers bancano il Madison Square Garden per 105 a 98 e finalmente tornano a sorridere chiudendo una serie di 5 sconfitte consecutive, parte di una striscia comprendente 9 sconfitte nelle ultime 10 gare precedenti alla sfida newyorkese. Questa flessione di squadra da segnalare il calo del rookie Ben Simmons, che a dicembre ha diminuito le sue medie realizzative a poco meno di 14 punti per gara. La cosa che può preoccupare al riguardo è il fatto che, in seguito ad un avvio strepitoso del rookie, le difese della Lega siano ben riuscite a prendergli difensivamente le misure. Questo non è neanche troppo difficile se ci pensate o comunque se l'avete visto giocare, perché la prima scelta assoluta dei due Raptors sono tira malissimo da fuori l'area pitturata, malgrado il suo atletismo, malgrado la sua rapidità e malgrado la molteplicità di soluzioni nell'area stessa. Basta quindi difenderlo con un metro di vantaggio, regalandogli così la possibilità di un tiro che è potenzialmente complicato vedere scuotere la rete per limitarlo notevolmente. Nella sfida di Natale si risveglia alla fine con un paio di schiacciate impressionanti in velocità e tra l'altro anche abbastanza decisive, ma con solo 8 punti totali nel finale, tirando soltanto 8 volte, raggiungendo 4 successi. Strepitoso però di contro un Joel Embiid versione one man show in entrambi i lati del campo e in tutte le dimensioni possibili ed immaginabili, perché se nella dimensione del gioco è strepitoso e lo sappiamo, in quella comportamentale è a mio avviso uno spasso tra gomitate, polemiche, provocazione ad avversari e pubblico. Veramente fantastico. 25 punti con 16 rimbalzi per lui con 2 su 3 da dietro l'arco e la tripla decisiva che di fatto chiude la gara, seppur con la bellezza anche di 6 palle perse ed un paio di pasticci nelle ultime azioni che rischiano di riaprire la gara. Dall'altra parte tira malino Porzingis, ma ai 22 punti di ordinanza accompagna 5 clamorose stoppate. La parte del man on the match la recita però un incredibile Enes Kanter, 31 punti e 22 rimbalzi per lui, di cui 11 offensivi, in un duello a tratti entusiasmante proprio con Embiid, che spesso sembra essere sul punto di sfociare una rissa più che proverbiale, mai fortunatamente esplosa. Philadelphia resta comunque squadra dalle soluzioni interessanti, basti pensare all'apporto anche in questa gara del solito Redick, al consueto contributo di Saric, alla grande gara dalla panchina di TJ McConnell. Lo stesso vale comunque anche per i New York Knicks, sorprendenti fino ad adesso e ad oggi ben dentro la top 8 di conference. L'augurio personale è quello di rivedere entrambe le squadre ai prossimi playoffs e probabilmente anche un Embiid partente da centro alla prossima partita delle stelle. Per quello che può contare, personalmente io ad est ho votato lui. L'ultima sfida della notte, Minnesota sbanca lo Staples Center di Los Angeles con la sua prima vittoria di sempre nella Christmas Night, grazie anche ad un Jimmy Butler da 23 punti, un Karl Anthony Towns da 21 punti e 10 rimbalzi, 19 punti dalla panchina di Jamal Crawford ed un super contributo offensivo di Taj Gibson da 23 punti ed anche 9 rimbalzi. Come si dice qui in Toscana, zitti zitti, i Timberwolves stanno portando avanti una stagione di tutto rispetto come quarta forza ad ovest, Per i Lakers invece, gara senza Ingram e Lonzo Ball. Ci pensa uno strepitoso Kyle Kuzma, che chiude con 31 punti e 6 triple. Clamoroso in questo avvio di stagione ed in vertiginosa crescita con 20 punti di media nel mese di dicembre. Primo rookie, tra l'altro, dal 2003 a mettere al referto almeno 30 punti nella Christmas Night. Quello di allora, l'ultimo ad aver raggiunto questo risultato, si chiamava LeBron James. Al momento, considerando la già detta flessione di Simmons e la salita continua di un Donovan Mitchell da quasi 25 punti di media nell'ultimo mese dell'anno, azzarderei una top 3 nel momentaneo power ranking dei rookie stagionali, con l'apparente secondo esordiente di Los Angeles alla numero 2, proprio dietro al fenomenino di Utah, con una retrocessione al terzo posto proprio del rookie dei Sixers. Accanto a Kuzma, in questa partita, non bastano comunque i 16 punti dalla panchina di Julius Randle e i 17 di Jordan Clarkson. Concludendo sulla Christmas Night, grande conferma per gli Oklahoma City Thunders, che in casa sconfiggono i Rockets di James Harden orfani dell'amuleto Chris Paul. Finisce 112 a 107 con i Big 3 di casa in grande spolvero realizzativo. Houston risponde con 29-14 assist del Barbone, 19 punti con 10 rimbalzi di Clint Capela, 20 punti di Eric Gordon e 20 di Trevor Ariza. 12 triple di squadra su 37 tentativi non bastano però per la squadra di D'Antoni, anche perché dall'altra parte chiudono quasi col 55% dal campo, con 20 punti di Carmelo Anthony, 24 di Paul George, 15 con 10 rimbalzi di Steven Adams. Eroe della partita, della notte e del momento nella Lega è però Russell Westbrook, che questa notte chiude con 31 punti, 11 assist e 6 rimbalzi, elettrizzante nell'arco di tutti e 37 minuti passati in campo, seppur con 5 palle perse. OKC migliora così una striscia aperta di 5 vittorie consecutive, 8 nelle ultime 10 partite, ed è nettamente in risalita al quinto posto di conference. Il segreto sta proprio nel numero 0, che ha personalmente carburato definitivamente, con un dicembre da 26 punti di media, 10.6 assist, 9.7 rimbalzi. Anche a livello stagionale, anche lui zitto zitto, la tripla doppia di media è sempre più vicina ed è solo questione di un soffio. 9.9 gli assist per gara, 9.4 i rimbalzi, con 23 punti di media, al momento ovviamente in cui stiamo registrando. Il leader conclamato dell'otto è ovviamente lui, guida in campo e fuori di un organico che, è inutile ripeterlo, risulta molto più forte sulla carta di quanto abbia raccolto fino ad oggi in materia di vittorie e sconfitte. Attenzione quindi a loro nell'andare avanti della stagione. Benissimo, questa puntata giunge rapidamente alla conclusione, del resto concedetecelo nel bel mezzo della proverbiale settimana di feste invernali. Difficile trovare infatti la concentrazione e la lucidità per dare di più tra pranzi, cene, bevute, auguri e visite di cortesia tipiche di queste ore. Vi ricordo comunque che da pochi giorni potete votare i vostri 5 giocatori preferiti ad est e ad ovest per la prossima All-Star Game, che avremo modo di analizzare, valutare e discutere in futuro. Per il momento posso solo dirvi le mie preferenze attuali. Ad est, frontcourt composto da LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, Kyrie Irving e John Wall come guardie. Ad ovest, Stephen Curry e Russell Westbrook di guardia, mentre frontcourt composto da Kevin Durant, DeMarcus Cousins e Karl Anthony Towns. Ovviamente, per evitare doppioni, ad ovest Anthony Davis e DeMarcus Cousins a mio avviso sarebbero intercambiabili. Io ho scelto Cousins per semplice simpatia personale. Vi lascio quindi con i miei più sinceri auguri per uno splendido 2018 in arrivo, ringraziandovi per il primo anno effettivo di ascolto e rinnovandovi i nostri appuntamenti, che sono, al solito, tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio in streaming su Radio Valdarno, non dimenticandovi che esiste anche una pagina Facebook ufficiale che si chiama appunto NBA Week, dove potete trovare i link agli archivi puntate, riferimenti agli orari di trasmissione ed eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto. Grazie ancora una volta per l'ascolto, ci risentiamo stavolta l'anno prossimo.